Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone. Di che parleremo quest'oggi? Ve lo introduce immediatamente questa canzone, lo capirete credo quasi al volo. Ever since the end of us, I've been talking to statues of Simone Bolivar. Never asked me wrong or right, and if I'd only surrender to his clean-swept marble steps, I could sleep before Simone Bolivar for 360 more nights. While I'm waiting for a word, in realtà. Per adesso, ascoltando di nuovo questo brano di Peter Maybarduk, se i nostri ascoltatori Banzo hanno capito di cosa parleremo. Buon pomeriggio Banzo, bentornato a Zibaldone, ergonomico come sempre, insomma a questo punto dillo tu. Io dico solo il titolo della canzone, che era del 2009, quindi sono passati più di 15 anni, Statues of Simone Bolivar, vabbè questo aiuterà dai. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, credo che sostanzialmente la cosa che si sia capita meglio del testo, anche per chi magari non è molto familiarizzato con l'inglese, sia che viene menzionato varie volte Simone Bolivar, quindi poteva dare un indizio sulla tematica della canzone, evidentemente sulla tematica della puntata. La puntata che si intitola Trump e l'America Latina. Beh, in realtà, Steven, volevamo darle un altro titolo, penso si possa dire, no? Ah sì, diciamolo. L'idea originale era Il giardino dietro casa, facendo un po' riferimento alla dottrina Monroe, che, cioè, quella che porta gli Stati Uniti a considerare tutto il continente latinoamericano come una specie di dépendance per i loro interessi geopolitici, diciamo. Però c'era un titolo molto efficace ma un po' oscuro, un po' criptico, nel senso, poteva sembrare esatto, una puntata poetica o una puntata di giardinaggio, e invece non è il caso, è molto politica. È molto politica oggi, sì, perché molto molto politica. Avremo appunto Trump e l'America Latina, insomma parliamo di quello che sta succedendo, di quello che è successo negli ultimi tempi, di cosa possiamo immaginarci, non c'è bisogno, credo, che vi diciamo di più, insomma, dall'azione militare in Venezuela dello scorso 3 gennaio, il sequestro di Maduro, tutto quello che sta succedendo, e insomma è legato anche appunto alla nuova versione della dottrina Monroe che menzionava proprio il Banzora. E per parlare di ciò, al di là poi insomma di musica che ci accompagna, alcuna tema, altre invece no, sono novità che ci arrivano dall'Italia, avremo con noi Ramon Mantovani, che è stato già nostro ospite in passato, ex deputato di Rifondazione Comunista, con molti contatti soprattutto negli anni 90-2000 con l'America Latina, in una stagione evidentemente diversa che probabilmente si è chiuso, si sta chiudendo nella sua fase finale anche adesso. Ne parleremo con lui e quindi insomma un po' cercheremo di capire cosa sta succedendo e avere anche una visione di chi come Ramon Mantovani ha una lunga esperienza non solo politica ma anche nei contatti con i movimenti sociali e la sinistra latinoamericana. Banzo, brevemente, Peter Maybarduk, Statues of Simón Bolívar, cosa interessante, lui è nato a Città del Messico da un diplomatico americano e un assistente sociale, avvocato, attivista in campo medico e cantautore con diversi album all'attivo. Questa canzone è tratta dal suo... è tratta da un suo disco intitolato Noi Pueblo Vencido, 2004, no, 2004 è l'occasione che ha fatto scaturire questa canzone, è un viaggio a Caracas, che poi è confluita in questo album, e la situazione vede Leo Narrante, che possiamo immaginare sia lo stesso Maybarduk, dialogare con statue di Simón Bolívar, quindi c'è un significato sia esistenziale che politico, perché parla di una situazione di crisi esistenziale e vede in Simón Bolívar una specie di silenzioso consigliere, quindi una persona che non consiglia, in realtà una figura che non consiglia, è una metafora dell'incertezza esistenziale, ma trattandosi di Simón Bolívar evidentemente c'è tutta l'eredità politica della sua figura che rimane sullo sfondo. Ascolta, prima di parlare con Ramon Mantovani andiamo con un brano che in realtà arriva dall'Italia, che non ha niente a che fare con il Venezuela e l'America Latina, e il titolo dell'album è bellissimo, Quaglia Sovversiva, è uscito nel 2025 a dicembre, lui è Marco Castello, editto dal Sottoscoglio. Dici tu qualcosa telegraficamente, Banzo, perché insomma secondo me merita. Ma sì, poi non ha a che vedere con l'America Latina, ma sì, no, perché comunque è un brano che parla, lo dico, dell'imperialismo americano, perché la dizione di Castello è frenetica e forse non si coglie tutto al primo ascolto, e non canta neanche in siciliano come fa altre volte in questo album. E sì, è una canzone che prosegue, cioè un album che prosegue in realtà il suo stile di cantautorato groovy e funky, e lo sentirete, è un brano gustosissimo. E, sì, sostanzialmente per gli amanti della Prima Repubblica, i nostalgici, c'è anche un riferimento a Sigonella, perché appunto si parla di imperialismo americano e Sigonella magari non è la prima cosa che verrebbe in mente, ma a un italiano può venire in mente facilmente. Ecco. Dai, ci andiamo ad ascoltare Marco Castello, poi ne parliamo con Ramon Mantovani. Schiacciato dalla mole incandescente di una nuvola di male tumbula del regno Yankee, perché si sta pian piano demolita dalle botte sgretolando l'ossatura di quest'incubo colonia. Stelle, strisce, bombe, fentanyl. Così è presto decisa la missione cacca Sigonella. Con questa notte quest'ipoge assemblea riposa. Milioni di Awax e i Globaloc, per poi scagliargli in testa biscio in busta. Collegamento telefonico con noi abbiamo Ramon Mantovani, è stato per molti anni, tra gli anni 90 e i primi anni 2000, deputato di Rifondazione Comunista in Italia e continua attualmente nella direzione di Rifondazione Comunista. Ramon, bentornato a Zibaldone. Grazie per l'invito. No, un piacere averti per parlare quest'oggi di Venezuela, per parlare insomma di cosa ha significato e sta significando quello che abbiamo visto, stiamo vedendo nell'inizio di questo 2026, che ha a che fare con il Venezuela, ma ha a che fare ovviamente con la politica statunitense, il ruolo di Trump, che evidentemente coinvolge anche altri paesi, altre latitudini, pensiamo insomma alla Groenlandia, ma non solo. Ecco, cominciamo da qui, il 2026, Ramone ha cominciato con questa notizia forse aspettata, ma insomma che comunque ha lasciato molti sorpresi, di un attacco a Caracas da parte dell'esercito statunitense, il sequestro di Nicolás Maduro e una situazione che quasi ricorda l'imperialismo della fine del dell'Ottocento. Ecco, però insomma vorrei che ci dicessi un po' tu, per rompere anche il ghiaccio, qual è la tua visione di quello che abbiamo vissuto e di quello che stiamo vivendo. Dunque, viviamo una fase nuova della storia del mondo, perché genocidio in Palestina, guerra in Ucraina, guerra contro il Rojava nella Siria, che è in mano adesso a un governo di tagliagole, perché mentre prima erano i nemici terroristi peggiori del mondo, adesso il presidente siriano è stato accolto, è stato salutato come un democratico, mentre è un tagliagole da tutti i punti di vista. E poi c'è questo episodio del Venezuela che sta a significare che gli Stati Uniti, essendo in crisi, in declino, rispondono riattivandosi come potenza militare e come padroni del mondo, perché di fatto è stata travolta ogni legalità internazionale andando a sequestrare un presidente di un governo di un altro Stato. Gli Stati Uniti sono un pericolo per la pace nel mondo, lo dice lo stesso Trump, che non ha avuto il premio Nobel come voleva e che adesso quindi non ha più l'obiettivo della pace. Se non ha più l'obiettivo della pace, si vede che deve avere l'obiettivo della guerra. E credo che si stia lavorando in questa direzione. È una pagina dura e molto nuova e pessima della storia dell'umanità. Tutto questo tra l'altro si lega anche al di là delle dichiarazioni che fa Trump, che fanno altri membri dell'amministrazione statunitense come Rubio o Vance o Hegseth, si lega anche a un documento che è molto importante, che va in questa direzione e soprattutto ha un'importanza anche per quello che abbiamo visto in Venezuela, ossia il documento pubblicato, se non erro, a novembre del 2025 della strategia statunitense, che insomma ha parlato di una nuova versione inversione della dottrina Monroe per quanto riguarda l'emisfero occidentale, ossia il continente americano, e che riporta appunto una visione come era stata tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, ma non solo, poi in realtà possiamo anche parlarne, dei Caraibi, dell'America Centrale, dell'America Latina, come una specie di, in spagnolo si dice patio trasero, no? Il giardino dietro casa per gli Stati Uniti. Ecco, anche su questo credo che una riflessione vada fatta. Ma certamente, ma però io non vedrei qui una grandissima novità. C'è un'escalation, sì, ma la politica di sottomissione dell'intero continente americano agli interessi degli Stati Uniti è una politica che è cominciata con l'inizio del secolo scorso ed è proseguita fino ad oggi con tutte le amministrazioni che ci sono state. Pensiamo a Cuba, ai tentativi di invadere Cuba, ai tentativi di uccidere Fidel Castro, pensiamo alle decine di colpi di Stato che sono stati organizzati nei paesi dell'America Latina del Sud, pensiamo al fatto che in Venezuela non è che c'è una novità, e c'è che dal primo giorno che Chavez vinse le elezioni gli Stati Uniti hanno lavorato prima per fare un colpo di Stato che fallì e poi con i boicottaggi, con gli aggiotaggi dei loro complici delle catene distributive nel paese e con il boicottaggio dei prodotti petroliferi del Venezuela eccetera, hanno tentato di uccidere questo esperimento, questa rivoluzione bolivariana che avrà i suoi limiti, ha i suoi limiti, ha i suoi difetti, che però bisogna spiegare e io considero anche giustificare nell'ambito del fatto che è aggredita da ormai più di 20 anni dal paese, dalla potenza più potente e più ricca del mondo. A questo proposito magari entriamo un attimo più nel caso venezuelano, no? Offrendo ovviamente anche ai nostri ascoltatori una prospettiva storica, tu lo stavi già facendo, parlavi di limiti e difetti, no? E di difficoltà del progetto diciamo iniziato da Chavez e continuato dopo il 2013 da Nicolás Maduro e che ora ha una nuova leader de facto e vedremo se insomma saprà tenere un po' le fila di tutto quello che sta succedendo, Delcy Rodríguez. Ecco, tu come analizzi anche da questo punto di vista la transizione che c'è stata prima con Maduro, tutto quello che è successo negli ultimi 12 anni, penso per esempio già alla crisi del 2019-2020, la grande migrazione comunque di popolazione venezuelana che c'è stata, no? Si parla di circa 7 milioni di persone, se non erro, nell'ultimo decennio. Ecco, e adesso anche sì, questa nuova fase che si è aperta e cosa può significare non solo non tanto ora a livello internazionale, che in parte lo abbiamo già detto, ma a livello anche venezuelano. Ma io, come ho detto, bisogna spiegare e giustificare anche, secondo me, una involuzione abbastanza autoritaria che c'è stata in Venezuela, perché quando sei aggredito ti devi difendere in qualche modo. Quando l'aggressione viene dall'ambasciata degli Stati Uniti, che ha salutato i golpisti quando fecero il colpo di Stato contro Chavez e che li riconobbe immediatamente, è evidente che ci sono dei problemi che vanno affrontati con durezza. Non si può opporsi a chi ti vuole far fuori, a chi ti vuole distruggere il paese, a chi vuole distruggere l'economia del tuo paese, a chi compra dei dittatori in pectore come questa signora che ha preso il premio Nobel, direi per la guerra, non per la pace, che salutò subito il colpo di Stato contro Chavez come una cosa meravigliosa. Quando succedono queste cose ci sono dei problemi. Poi c'è un problema più generale che mi permetto di dire io, senza che nessuno possa pensare che io sono eurocentrico, perché non lo sono affatto. Però il problema dell'America Latina è anche che, per esempio, Venezuela, Bolivia e Ecuador, che hanno fatto tre movimenti rivoluzionari o comunque progressisti e hanno rovesciato dei regimi ultra corrotti e ultra autoritari, hanno fatto poi tre nuove costituzioni e tutte e tre l'ingegneria dello Stato, cioè la concezione dello Stato, è identica a quella degli Stati Uniti. C'è un presidenzialismo dove il presidente è sostanzialmente un re che ha un parlamento che al massimo lo controlla. Questo è un problema democratico, che è un limite democratico, come c'è negli Stati Uniti, c'è anche in tutta America Latina e in tutti questi paesi. È stato secondo me un errore. Ti dico conto che io ho conosciuto sia Chavez che Maduro, Maduro quando era ministro degli esteri, non quando è stato poi presidente. Devo dire che io non solo a loro, ma anche con i miei compagni dell'America Latina più volte ho suggerito che era necessario rivedere la concezione dello Stato, perché non si può avere una concezione dello Stato identica a quella degli Stati Uniti e presentarsi come alternativa agli Stati Uniti. Ma comunque, tant'è. Questo è un problema generale, perché c'è anche in Italia questo problema, visto che si vuole andare verso il premierato e visto che il sistema elettorale italiano è già identico dal punto di vista degli effetti a quello statunitense, infatti vota ormai il 50% della gente, col proporzionale votava più del 90% sempre, e quindi questo è un altro problema, no? Ma questo è un problema generale di tutta l'America Latina. Poi ci sono stati 7 milioni di esuli, sì. Ci sono stati 7 milioni di esuli perché il paese è stato ridotto alla fame dal boicottaggio economico. È stato fatto, le catene distributive di prodotti hanno fatto aggiotaggio, cioè non distribuivano le merci, e lo hanno fatto per lunghissimo tempo provocando dei gravi danni alla vita della popolazione, ma lo hanno fatto solo per tentare di mettere le basi per rovesciare il regime. E naturalmente questo produce il fatto che la gente scappi e se ne vada a cercarsi vita migliore altrove. Questa è la verità, questa è la verità storica che c'è stata in Venezuela. Riguardo a Delcy Rodríguez, no? Abbiamo letto molte analisi, molte supposizioni negli ultimi giorni. In ogni caso, e al di là della conoscenza anche proprio sul terreno, che ovviamente è un elemento chiave, e le correlazioni di forza interne al regime bolivariano in Venezuela, ecco, qual è un po' la tua opinione al riguardo? Mi riferisco a che cosa soprattutto? A questa tensione che sembra difficile, diciamo, da gestire sul medio-lungo periodo da parte di Delcy Rodríguez e dall'equipe che ora, diciamo, governa il Venezuela, tra un discorso, diciamo, fedele alla rivoluzione bolivariana, anti-imperialista, e allo stesso tempo dover, diciamo, trattare con Washington. Ecco, secondo te c'è margine di manovra? Si tratta di retorica interna per la popolazione e, diciamo, il dover piegarsi a una correlazione di forza che ovviamente è favorevole agli Stati Uniti? Ci sono altri elementi secondo te di cui tenere conto? Sì, ci sono degli altri elementi, il primo dei quali è che il sequestro del presidente non ha provocato una spaccatura delle forze armate e non ha spaccato il partito che detiene la maggioranza parlamentare e il potere, mentre tutti dicevano che questo sarebbe successo e si erano già preparati, come è noto, perché ci fossero grandi manifestazioni di giubilo, di massa per il sequestro del presidente, e che mettevano le basi per un colpo di Stato, perché di questo si sarebbe trattato. Che poi adesso si tratti con Delcy Rodríguez e che cosa possa fare Delcy Rodríguez, io questo francamente non lo so prevedere con esattezza, anzi neanche approssimativamente, perché questo dipende da che intenzioni hanno gli Stati Uniti, se hanno intenzione di rovesciare il regime o se hanno intenzione di semplicemente cercare di ottenere dei miglioramenti dei loro privilegi, delle loro multinazionali sullo sfruttamento della risorsa che interessa moltissimo, che è il petrolio e le terre rare, perché la democrazia degli Stati Uniti non gliene frega assolutamente niente. Questo non è prevedibile, però io non so, non mi piace né parlare di teorie di complotti che sono state avanzate su diversi mezzi di comunicazione, tantomeno mi piace fare previsioni quando non ho gli elementi sufficienti, certo, per poterle fare. Certo. Un altro elemento di cui tenere conto, e che riguarda un po' sia evidentemente il cambio della situazione in Venezuela, sia la strategia più aggressiva di Washington nei confronti dell'America Latina, riguarda Cuba. Cuba ovviamente, insomma, se ne è parlato anche in questi giorni, che tra l'altro sta vivendo una situazione dal punto di vista economico difficile, con problemi energetici, problemi di diverso tipo anche per la popolazione, ovviamente perde un alleato chiave nella regione, e l'aggressività di Washington sembra essere in crescita, non si sa nemmeno se con una possibilità che non si può più escludere di un tentativo di intervento militare. Ecco, su questo che riflessione possiamo fare? Possiamo fare una riflessione che ha a che fare con gli ultimi 25 anni di politica in Venezuela degli Stati Uniti, perché non va dimenticato, cosa che vedo che moltissimi giornalisti, commentatori e pseudoanalisti fanno, non va dimenticato che Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador avevano costituito un mercato interno comune, l'ALBA, con una moneta propria che serviva solo per gli scambi commerciali, sì. E c'era uno scambio di merci con il petrolio venezuelano, con altre cose che venivano date in cambio da questi paesi. Ma io ti dirò una cosa in più, che io so, e che anche se non è stata molto pubblica, diciamo, c'era l'intenzione al tempo in cui era vivo Castro ed era vivo Chavez di far qualcosa in più di una collaborazione economica, di una moneta comunica e di uno spazio di mercato comune. C'era l'intenzione di mettersi in piedi, diciamo, una piccola Unione Europea dei Caraibi. C'era l'intenzione di fare un passo in avanti, cosa che peraltro avrebbe permesso a Cuba di fare riforme politiche che altrimenti non si possono fare, perché sarebbero riforme fatte con la pistola puntata alla tempia e seguendo le istruzioni, diciamo così, dei padroni degli Stati Uniti. Mm-hmm. Cuba adesso soffre molto della fine di questa operazione e soffre di un isolamento peggiore di quello che c'era prima, perché prima era riuscito a rompere questo accerchiamento e a risolvere molti dei suoi problemi politici ed economici interni. Cuba rischia come ha rischiato il Venezuela, punto e basta, e questo dipenderà sempre da che cosa vuole fare gli Stati Uniti. Del resto Cuba oramai non ha più la possibilità di mettere i missili sovietici per impedire agli Stati Uniti di invaderla, quindi il destino di Cuba è legato a un filo. Un altro attore di cui tenere conto ovviamente in questa equazione è la Cina, tanto per quanto riguarda anche il maggiore protagonismo che ha avuto, no, negli ultimi 15-20 anni la Cina in America Latina, con molti investimenti, come partner commerciale molto importante dopo evidentemente gli Stati Uniti e l'Unione Europea, ma in alcuni casi anche prima con diversi paesi latinoamericani, e tenendo conto evidentemente come tutto questo entra anche nella strategia statunitense, nelle tensioni geopolitiche internazionali. Ecco, tu cosa potresti dire al riguardo? Che ruolo secondo te sta giocando la Cina, non solo in generale, ma anche proprio nello scenario latinoamericano, tenendo conto degli sviluppi degli ultimi mesi? La Cina è una potenza economica, capitalisticamente parlando, in espansione. La Cina possiede più di un terzo del debito degli Stati Uniti d'America. La Cina è in grado di produrre un'innovazione superiore a quella che si produce negli Stati Uniti. La Cina sta facendo investimenti in Africa e in America Latina che sono contraddistinti da relazioni economiche non di tipo imperialistico, di sfruttamento totale delle risorse di questi paesi. E quindi gli Stati Uniti la vedono come il loro nemico principale. Punto. Loro pensano e sperano di poter invertire la rotta che ha preso l'economia mondiale, ma è una speranza piuttosto disastrosa, perché dal punto di vista economico è impossibile, essendoci la globalizzazione e la finanziarizzazione dell'economia ed essendoci mercati finanziari liberi, è impossibile che gli Stati Uniti riescano a contenere e a risolvere la loro crisi strategica, la loro decadenza che loro stessi hanno provocato promuovendo la globalizzazione capitalistica. E in secondo luogo hanno un problema, che l'unica risorsa che gli rimane è quella militare, ma quella militare può provocare guerre, sta provocando guerre e provocherà guerre sempre più gravi e forse anche una guerra totale, perché per la prima volta nella storia dalla Seconda Guerra Mondiale in poi si parla dell'uso di armi nucleari come di un fatto politico, cioè se ne discute come di una possibilità concreta e reale. Sì. E questo è quello che aspettiamo tutti nel peggiore dei casi, e bisognerebbe correre ai ripari. Io penso che per esempio un paese dell'Unione Europea, qualsiasi paese dell'Unione Europea importante, io penso all'Italia per esempio, dovrebbe dichiararsi neutrale, cioè dire: noi non vogliamo partecipare a nessuna guerra di nessun tipo e quindi vogliamo essere neutrali, come lo è l'Austria e come lo è la Svizzera. e i soldi invece di spenderli in armi, in parte li spenderemo per il benessere dei nostri cittadini e in parte li possiamo anche spendere per promuovere processi di pace. Questo sarebbe un indicatore di controtendenza nel mondo, ma siamo molto lontani da questa possibilità, diciamo quasi un sogno, però siccome razionalmente sarebbe utile farlo, forse non è proprio un sogno, forse si può, è una speranza che si può realizzare. Ascolta, parlavi dell'Italia, dedichiamo qualche minuto anche alle posizioni che ci sono state in Italia, sia sul, su quello che è avvenuto in Venezuela, sia ovviamente sulla strategia statunitense che stiamo vedendo anche ora con la questione groenlandese, ma anche in generale su il futuro, se ci metto un punto di domanda, della NATO. Ecco, ti ha stupito la posizione del governo italiano? Era quello che ti aspettavi? E per quanto riguarda l'opposizione, che cosa possiamo dire? Ma il governo italiano è un governo imbroglione, perché è andato al governo dicendo, i partiti del governo italiano sono andati al governo presentandosi come sovranisti. Invece sono quelli che vorrebbero svendere tutto dell'Italia alle multinazionali straniere, che obbediscono ciecamente agli ordini degli Stati Uniti d'America, che non si preoccupano di dire perfino che potrebbero invadere da un momento all'altro un paese della NATO e dell'Unione Europea come la Danimarca, perché la Groenlandia è parte del territorio della Groenlandia, ha il diritto all'autodeterminazione, ma è dentro il territorio della Groenlandia. Quindi che giudizio si può dare di un governo che fa una roba del genere? Certo, la politica spettacolo ormai non ci meraviglia più di niente. L'opposizione è molto timida, troppo timida, parlo dell'opposizione parlamentare, è troppo timida nel criticare sia la sudditanza del governo italiano alla NATO, agli Stati Uniti e alle politiche di riarmo europeo, sia dal punto di vista anche economico, perché l'Italia non ha nessun interesse a comprare il gas dagli Stati Uniti invece che dalla Russia, nessuno, solo forse le multinazionali che fanno il profitto sul commercio e la rendita sul commercio del gas ci guadagnano molto di più, ma i cittadini ci perdono, il paese ci perde la piccola e media impresa italiana, ci perdono le industrie nazionali che pagano l'energia il doppio, il triplo, il quadruplo, quindi l'Italia sta molto male, bisognerebbe che ci fosse una svolta, la vedo difficile visto il sistema politico, istituzionale, elettorale che c'è, che oramai esclude il 50% dei cittadini dalle decisioni. Sì, sì. Ascolta, un'ultima domanda. Tu hai conosciuto bene l'America Latina, soprattutto negli anni 90, nei primi anni 2000. Erano anni molto diversi, no? Prima anche citavi i tuoi incontri con Chavez e Maduro in un'altra epoca. Ovviamente parliamo di un'epoca storica completamente terminata. E la domanda va proprio al riguardo. Menzionavi anche la Bolivia, l'Ecuador, ossia che cosa è rimasto di quella ondata, no? Che era iniziata, se così vogliamo mettergli un punto di partenza, forse con il 94, lo zapatismo in Messico, anche tu lì hai avuto contatti durante molti anni, e poi è continuata con il chavismo, insomma il socialismo del XXI secolo lo si è definito, la rivoluzione bolivariana con le diverse declinazioni che ci sono state in America Latina, ma penso poi anche a figure, diciamo, un po' parallele in questo ciclo della storia latinoamericana che è cominciata alla fine del Novecento, come Lula in Brasile, o più recentemente, non so se vogliamo inserirli un po' in questo ciclo che sta terminando, Petro in Colombia, in modo diverso Boric in Cile. Ecco, insomma, che cosa è rimasto di tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi 25 anni e che prospettive ci possono essere per la sinistra o il mondo progressista, chiamiamolo così, latinoamericano nel futuro? Beh, è rimasto lo spirito dei movimenti sociali che hanno prodotto questi cambiamenti istituzionali nonostante i sistemi politici ultrapersonalizzati e presidenzialisti. Ed è rimasto perché, per esempio, in Colombia sembrava totalmente impensabile che un presidente di sinistra potesse, e peraltro ex guerrigliero del movimento dell'M19, che un movimento guerrigliero, era un movimento guerrigliero colombiano, potesse essere eletto presidente. Quindi ci sono contemporaneamente i segni di una delusione, di un declino delle esperienze le rivoluzionarie o comunque progressiste che ci sono state, ma contemporaneamente se ne accendono di nuovi, come quella del Cile, anche se si sono perse le elezioni, ma però era stato fatto un progetto costituzionale, il movimento non è per niente spento, adesso sono nelle strade a protestare contro la politica che sta facendo il governo cileno, e lo stesso sta succedendo in Argentina con quel pazzo ultrafascista di Milei e così via. Quindi è una situazione aperta a tutti e due gli sbocchi, e anche per questo che gli Stati Uniti non vogliono che lo sbocco sia quello della sinistra e sia quello del progresso, vogliono continuare a mantenere sotto il loro tallone di ferro tutta l'America Latina. Insomma, avremo modo di tornare a parlarne, perché insomma lo scenario internazionale è piuttosto complesso. Ramon Mantovani, grazie davvero di essere stato con noi e speriamo di averti presto nostro ospite. Grazie a voi e buon lavoro. Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile che arriva a fine mese. Dovrei ringraziare il Signore, bravo, che mi è andata bene, dovrei essere felice per la mia panda 2013. Dovrei essere soddisfatto, vivo a Nolo, niente più pasta col tonno. Dopo qualche anno vedo gente, poco sonno in questa città meravigliosa. Dovrei sorridere, andare fiero, finalmente io che ho vinto nella vita. Ma questo mi sa di cazzata un po' pericolosa. Dovrei essere contento perché tutto che ho voluto l'ho avuto, ma confesso che alla fine sono un po' deluso. E ora con l'età di Cristo mi chiedo, e allora? C'è ancora tanto da fare, ma la voglia non si fa più trovare. Ringrazio tanto le domeniche, tutte al parco, in bici, in monopattino, in famiglia, a dare da mangiare ai piccioni. Ah, che tipo noioso sono diventato, non trovo niente di interessante, calcio, piccione, cicchitocchi, mi rompo sempre il cazzo. E guardandomi allo specchio, un grandissimo idiota, un umano limitato che non usa un terzo della sua testa animale. E chi mi credo alla fine, gran dottore, prete, artista, che contribuisce a questo meraviglioso quadro sociale. E io che non mi sento nessuno sul trono del mio appartamento, con la bocca aperta piena di denti, mentre aspetto la morte bussare. Ma lontano dalle sbarre che separano le case, fuori c'è l'apocalisse, mi sento vivo e finisce tutto qui. Minacce di Trump. Mattarella ci serve per la sicurezza nazionale perché sul finire degli anni 50 fu uno dei cosiddetti urlatori. Potrei imporre 100.000 nuovi dazi a chi ostacolerà i nostri piani. È una coltellata. Ferma risposta favorevole di Giorgia Meloni nel suo viaggio in Asia con due cartoni di pizza. La domanda è: doveva vedere qualcuno? Simbolo della gastronomia e della tradizione italiana riconosciuta a livello mondiale. Chiara Ferragni racconta il nuovo equilibrio globale tra pandoro e uova di Pasqua e li esorta a prendere il controllo. L'influencer ha rivelato di avere lasciato intendere che parte del Giappone sarebbe andato in beneficenza 9 giorni fa. Ispirato dalla leggendaria corsa di Carletto Mazzone dopo un gol di Baggio, il Consiglio dei Ministri conferma la data del referendum sulla giustizia. Si voterà domani sera per 40 minuti vicino a una discarica di materiali edili in Venezuela. Il ministro Nordio difende la riforma e nella colluttazione colpisce uno con una carona. La domanda è: perché, si interroga il Papa? Solo il padre conosce le risposte. La propaganda del regime iraniano mostra in TV Jacques e Jessica Moretti che presentano il film di Checco Zalone dopo le accuse di Khamenei e i minori. Le nuove generazioni stanno perdendo il rapporto con il dolore. E sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, ecco, io faccio un po' fatica a capire quello che sta succedendo, non so se tu brevemente vuoi fare un commento al riguardo per aiutare anche i nostri ascoltatori. Mi stai chiedendo veramente se capisco qualcosa, cioè dai, abbiamo per esempio, prendiamo una notizia, questo governo ispirato dalla corsa di Carletto Mazzone, un gesto veramente motivational, come direbbero gli americani, ma lì poi li porta delle conclusioni strane, perché confermano la data del referendum, si vota domani sera, quindi si vota un sabato sera, cioè una cosa strana, per 40 minuti, in Venezuela. Cioè, nel senso, non ho capito esattamente quale sia la strategia politica dietro a queste scelte, chi possa andare a votare 40 minuti in Venezuela e se questa cosa convenga o meno al governo. Quindi, ma è che non c'è il quorum, non c'è il quorum, quindi sai. Forse loro si spostano. Vanno in 10, cioè, è fatta. Esatto, non lo so, quindi tu mi chiedi se ci capisco qualcosa, scusami, ma ci vuole un po' di candore per fare questa domanda. Hai passiamo alla musica, va. Passiamo alla musica. Selton e Emma Nolde, un bellissimo brano uscito da non molto, contenuto nel nuovo disco dei Selton, band brasiliana. Loro sono originari di Porto Alegre, ma è da quasi 20 anni che sono in Italia, e è un brano appunto dove collaborano con Emma Nolde, voce interessante, una delle migliori giovani cantautrici italiane, presente anche al Tenco nel 2025, e si tratta di una cover, dicevamo, Banzo, intitolata nella versione italiana Panda 2013, in realtà Ouro de Tolo, Oro Sciocco, scritta nei tempi della dittatura militare in Brasile, primi anni 70, da un grandissimo artista che era Raul Seixas. Sì, Raul Seixas è una di quelle, è una ragione, no, in realtà è una persona, è un cantautore, però è una ragione per la quale sono triste di non sapere meglio il portoghese, era dei testi sempre ficcanti, diciamo. Sì, questo brano, che poi i Selton hanno adattato al contesto attuale, perché è una cover, ma anche, diciamo, la canzone viene trasportata completamente in un'altra spazio-tempo, mi verrebbe da dire, ecco, è una canzone che criticava i desideri della classe media, cioè che sosteneva questo miracolo brasiliano propagandato dalla dittatura militare, e l'oro da sciocchi è il conformismo, la religione, l'euforia delle classi medie brasiliane, come sostenevano un regime fondamentalmente dittatoriale. E l'oro da sciocchi è anche un nome della pirite, quindi diciamo che è una canzone piena di livelli e di sottotesti, e appunto questi sottotesti si vedono anche nell'adattamento dei Selton, che è stato curato insieme a Max De Tomassi, un esperto in musica brasiliana e conduttore di Radio Rai, con la macchina, l'auto che viene menzionata nel testo originale, la Ford Corcel, che diventa una Panda 2013, quindi mi riferivo a quello quando parlavo anche di trasportare in un contesto spazio-temporale diverso, non si tratta di una semplice traduzione, ecco, quindi un'operazione molto interessante sotto tutti i punti di vista. E ora andiamo ad ascoltarci una canzone uscita da pochissimo, è proprio fresca fresca di questo 2026, Canto e canterò ancora, brano scritto da Cagnolo Guercio e cantata da, sentite un po', Luigi Locascio e Monio Vadia, e ha a che fare con delle questioni molto importanti al giorno d'oggi. Non vi dico nulla, ascoltatevi il testo. Ero al mare a guardare le stelle, e ogni stella è una fiamma che in questo mare si è spenta per sempre. Ti porterò al mare dove il fiume scompare, con la madre di Ahmed, i fratelli di Amin e le bocche nel sale. Tra gli ulivi di Hebron seguiremo le ombre delle vite spezzate che sulle pietre bruciano al sole, e andremo oltre i muri a contare le case che la polvere di una tempesta di fuoco ha coperto per sempre. Sulle alture per ascoltare il vento nella terra dei padri le voci smarrite ritrovano il canto. Hanno assediato il tempo, la memoria e l'incanto. Hanno oscurato il cielo dall'alba al tramonto. Ma io canto e canterò ancora, canto per sempre il mio dolore nel pianto. E io canto e canterò ancora, canterò sempre la luce del giorno. Alzano voci lontane, cori di donne che impastano pane in memoria della sabbia bollente. Sotto questa luna ogni confine si scioglie in silenzio, come sale nell'acqua che ritorna nel mare. E io canto e canterò ancora, canto per sempre il mio dolore nel pianto. E io canto e canterò ancora, canterò sempre la luce del giorno. E io canto e canterò ancora, canto per sempre il mio dolore nel pianto. E io canto e canterò ancora, canterò sempre la luce del giorno. Eh beh, l'avete sentito il testo, no? Attraversa i luoghi simbolo della Palestina, sì, il Negev, Hebron, il mare, e insomma dà voce a madri, figli, donne, uomini che sono schiacciati dall'occupazione e dalla guerra. Un viaggio insomma nella memoria e nella resistenza, un brano secondo me molto importante. Tra l'altro, oltre alla canzone che è scritta da Caniolo Guercio, che è stato anche nostro ospite a Zibaldone, Luigi Locascio e Monio Vadi alla voce, Banzo, c'è anche Giovanna Fambulari al violoncello. Esatto, che a Zibaldone ricordiamo perché era l'alter ego artistico di Michele Gazic, l'abbiamo intervistato l'anno scorso per parlare del suo ultimo disco, e sostanzialmente Giovanna Fambulari era l'unica altra persona presente sull'album oltre a Michele Gazic, quindi aveva un ruolo molto importante nella definizione degli arrangiamenti, dei suoni e dell'atmosfera. E la ritroviamo qui anche alla violoncella, alla voce. Un altro brano che è appena uscito e che vi vogliamo proporre in questa conclusione della puntata di Zibaldone di questo 23 gennaio è La mia parola è un impegno di Porfirio Rubirosa. E Banzo, ti cedo a te la parola perché merita di essere presentato bene questo disco, questo album. Questa canzone, scusa. Non è ancora un album, è ancora una canzone per ora, perché arriverà l'album dopo. Ma sai perché, Steven? Perché noi siamo vecchi e pensiamo ancora in termini di album. Ma ormai è tutto un profluvio di brani sfusi. Quindi Porfirio non fa eccezione, è tornato l'8 gennaio con questo nuovo singolo. Porfirio Rubirosa, per chi non lo conoscesse, non è la famosa figura mondana e politica degli anni 60, ma è il capo dei dadaisti, che è la definizione più dadaista del mondo. Cantautore che a Zibaldone abbiamo seguito moltissimo, ed è tornato, appunto, l'ho già detto, l'8 gennaio con questo singolo, che è la prima uscita della sua nuova etichetta Dischi del Lammione, spero di aver sbagliato la pronuncia. Ed è un brano dadaista, nel senso che comunque la canzone non ha tutte le caratteristiche, paletti della canzone, la strofa, il ritornello, eccetera, e c'è un tono comico e grottesco che, insomma, per chi conosce Porfirio è abbastanza prevedibile, nella sua imprevedibilità. È una canzone che parla di difetti e promesse di cambiamento non mantenute, rapporti umani, che poi in tutto questo mulinare di temi ci riportano a un nume tutelare di Porfirio, che è il grande Piero Ciampi, che è anche un po' un nume tutelare di Zibaldone. E per concludere, e spero di averlo presentato abbastanza bene, Steven, poi mi darai un voto. Bravo. Abbiamo, aspetta che lo finisco, poi magari lo alzo di altro mezzo voto. Abbiamo questa base orchestrale che è arrangiata da Fabio Merigo, già con Giuliano Palma e i Blue Beaters, che ha prodotto questo singolo insieme a Porfirio. Fra i musicisti coinvolti abbiamo anche Marta Stella al violino e Riccardo Di Paola al pianoforte. Visto che l'ho alzato di mezzo voto, sì, diamo un 8,5. Guarda, sono anche troppo buono oggi, un 9 per la precisione e la sintesi. Per la sintesi addirittura, mandiamo il brano che l'ha puntato molto sì, tempo. Dai, la mia parola è un impegno, Porfirio e Ruby Rosa. Ormai ho deciso, da domani sarò migliore, il dado è tratto, non parlerò più male di nessuno. A volte però è solo per scherzare, è tanto per parlare, ma davvero non lo faccio più. Da domani mi rimetto in forma, basta vita sedentaria. Poi comunque vado a piedi in ufficio, cammino anche in ufficio e poi sto tanto in piedi. Da domani sarò migliore, prometto non sbaglio più. La smetterò di bere, giuro che non bevo. Al massimo una birra solo nel fine settimana. Aspetta, e una con la pizza. Ma a parte questo non berrò mai più. La mia parola è un impegno, la mia parola è un impegno. La mia parola è un impegno, è un impegno, è un impegno. Da domani cambio vita, basta gratta e vinci. Non butterò più soldi, solo uno per Natale e uno per il compleanno che poi ne ho anche vinti. Ma non ti deluderò mai più, non farò più il bambino, assumerò le mie responsabilità. Farò la persona adulta, ne sono capace. Ecco, magari non tutto subito, ma comunque stai tranquilla, di me ti puoi fidare. Sono pronto per cambiare, ma tu non te ne andare. Fammi parlare, fammi parlare. Ti prego, fammi parlare, non te ne andare, fammi parlare. Ormai ho deciso, da domani sarò migliore, il dado è tratto. Non parlerò più male di nessuno, a volte però è solo per scherzare. È tanto per parlare, ma davvero non lo faccio più. Da domani mi rimetto in forma, basta vita sedentaria. E poi comunque vado a piedi in ufficio, cammino anche in ufficio e poi sto tanto in piedi. Da domani sarò migliore, prometto non sbaglio più. La smetterò di bere, giuro che non bevo. Al massimo una birra solo nel fine settimana. Aspetta, e una con la pizza. Ma a parte questo non berrò mai più. La mia parola è un impegno. La mia parola è un impegno. La mia parola è un impegno. È un impegno, è un impegno. Da domani cambio vita. Basta gratta e vinci. Non butterò più soldi, solo uno per Natale e uno per il compleanno, che poi ne ho anche vinti. Ma non ti deluderò mai più. Non farò più il bambino, assumerò le mie responsabilità. Farò la persona adulta, ne sono capace. Ecco, magari non tutto subito, ma comunque stai tranquillo. Di me ti puoi fidare, sono pronto per cambiare. Ma tu non te ne andare, fammi parlare, fammi parlare. Ti prego, fammi parlare, non te ne andare, fammi parlare. Ti devo spiegare, mi devi ascoltare. Fammi parlare, fammi parlare. Ormai ho deciso, da domani sarò migliore. Il dado è tratto, non parlerò più male di nessuno. A volte però è solo per scherzare, è tanto per parlare, ma davvero non lo faccio più. Da domani mi rimetto in forma, basta, basta vita sedentaria. Poi comunque vado a piedi in ufficio, cammino anche in ufficio e poi sto tanto in piedi. Da domani sarò migliore, prometto non sbaglio più, non smetterò di bere, giuro che non bevo, al massimo una birra, solo nel fine settimana, aspetta, una con la pizza, ma a parte questo non berrò mai più. La mia parola è un impegno, la mia parola è un impegno, la mia parola è un impegno, è un impegno, è un impegno, è un impegno. Da domani cambio vita. Basta, gratta e vinci. Non butterò più soldi, solo uno per Natale e uno per il compleanno, che poi ne ho anche vinti. Ma non ti deluderò mai più. Non farò più il bambino. Assumerò le mie responsabilità. Farò la persona adulta, ne sono capace. Ecco, magari non tutto subito, ma comunque stai tranquillo. Di me ti puoi fidare. Sono pronto per cambiare. Ma tu non te ne andare. Fammi parlare. Fammi parlare. Ti prego, fammi parlare. Tocca rosare. Fammi parlare. Fammi parlare. La mia parola è un impegno, Porfirio Rubirosa. Banzo, siamo davvero agli sgoccioli di questa puntata. Con l'ultimo trago torniamo per un omaggio in Venezuela. Sì, esatto, si tratta di un omaggio a Tony Dall'Ara, che ci ha lasciato lo scorso 16 gennaio all'età di 89 anni. Vi proponiamo uno dei suoi grandissimi successi, Come prima, un brano che, se non ricordo male, avevamo sentito anche... Sì. In uno dei nostri respinti all'Ariston, perché incredibilmente fu scartata alle selezioni sanremesi, diventando poi comunque un classico della canzone italiana, e ve lo proponiamo per rimanere in sintonia col tema della puntata in una versione che viene addirittura dal Venezuela e risale a pochi anni dopo, 1959, ed è a cura de Los Melodicos, un'orchestra creata nel 1958 da Renato Capriles, che aveva un repertorio di brani propri e rivisitazioni. Infatti questo brano è una cover e mantiene il titolo in italiano, anche se il testo è in spagnolo, e non c'è molto tempo, però è comunque uno delle orchestre che segnava un po' il ritorno della Venezuela alla democrazia dopo anni di giunte militari, quindi diciamo anni di effervescenza, e la loro musica li ha accompagnati, ma soprattutto per noi era importante ricordare Tony Dall'Ara. Ecco. È come che, ricordiamola, al secolo Antonio Lardera poi al Festival di Sanremo ci andò e nel 60 lo vinse, addirittura abbinato a Raschel con un altro dei suoi grandi successi, Romantica. Ci salutiamo con questa Come prima, omaggio a Tony Dall'Ara, cantano Los Melodicos venezuelani, e noi ci troviamo venerdì prossimo per un'altra puntata di Zibaldone, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 17:56 tutti i venerdì diceva: non dispongo di statistiche esatte, ma credo che questa sia la puntata di Zibaldone con la più alta percentuale di recitati nella nostra storia. Può essere. Ciao Banzo, come prima, come sempre, boh, come vuoi. Ciao ciao. come prima, di come prima, namà.